4 mattino. Ciao Simone, sono Dennis, ti sento tutte le mattine. Purtroppo sento solo che hai solo una parola: confusione. Vorrei vedere te al loro posto. Non è semplice e facile prevedere tutto su una cosa che non ha mai fatto in vita tua. Buongiorno Simone, ma a proposito dei ristoranti, ma tutti hanno chiesto ai ristoratori, ma nessuno ha chiesto ai clienti. Adesso non per essere, ma almeno ci siamo abituati che quando parliamo con una persona, invece di fare un passo avanti facciamo un passo indietro. Non è che per forza di cosa allora li lasciamo stare e abbiamo il tavolo a 50 cm l'uno dall'altro. Sicuramente un distanziamento più di prima ci dovrà essere, almeno se no io non ci andrò al ristorante. Cari signori, autonomia, autonomia, datecela, parlo dal Veneto io, datecela, abbiamo votato più di 2 anni fa e ci arrangiamo, non abbiamo più bisogno di nessuno. E Ale, tra l'altro è la battaglia che sta combattendo e che riprenderà a combattere, supponiamo, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, insieme agli altri, non appena le cose si saranno calmate. Di certo, però, il messaggio di questo ascoltatore ci dà uno spunto per dire che sarà più problematica dal punto di vista politico, dopo tutto quello che è successo. E questi problemi di rapporti tra lo Stato e le regioni, soprattutto sul fronte sanitario, con alcune che si sono comportate bene, altre un po' meno. Oh, io, per essere chiari, non pretendo la perfezione. È chiaro, lo abbiamo detto fin dall'inizio, e lo dico all'ascoltatore che dice, insomma, ti vorrei vedere al posto loro. Qua non è che si pretende la perfezione, però si pretende innanzitutto un'informazione più chiara da parte tanto del governo quanto delle regioni, indicazioni più precise, dati precisi che non riusciamo ad avere dall'inizio di questa crisi, anche per valutare la dimensione del fenomeno, strategie chiare sui tamponi e sui test sierologici che arrivano, non arrivano, partono territorialmente, poi decide di partire il governo, poi sceglie una data, ma in quella data non si parte. E si chiede soprattutto chiarezza. I numeri sulle mascherine, sui quali non si riesce a capire niente. Non si riesce a capire dove sono, chi ce l'ha, quando arrivano, a che costo. E poi si pretende chiarezza, e qua si pretende chiarezza, si pretende non avere informazioni su quello che succede il lunedì, il venerdì, soprattutto per chi si deve organizzare come gli imprenditori. Sarà questa una richiesta giusta oppure no? Poi si può sbagliare anche nel dare queste indicazioni, però si abbia un po' di, no, non dico di lungimiranza, ma vedere oltre la settimana, oltre il fine settimana, appunto, è solamente questo. Sui clienti dei ristoranti ha ragione, oggi c'è un sondaggio, se non vado errato, sul Quotidiano Nazionale, che dice una persona su due dice che non andrà al ristorante, quindi sì, è vero il distanziamento, è vero meno posti, ma ci saranno anche presumibilmente e a lungo meno clienti. In bocca al lupo a tutti i nostri amici ristoratori e baristi che sono all'ascolto e che sono in attesa di queste direttive e soprattutto sono preoccupati per la loro attività. Un abbraccio a loro. È la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa, è venerdì 15 maggio e vi aspetto come sempre al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, per le vostre voci. Alle 7:24 minuti la parte dedicata alla rassegna stampa con i titoli dei quotidiani dedicati appunto un po' a questa confusione che gira sulle direttive date dall'INAIL, dati in ritardo e sui dati in arrivo dalle regioni, dati in ritardo, caos regioni è il titolo del Messaggero. Due titoli più, la nuova distanza 2 metri è il titolo del Corriere della Sera. Il governo alle regioni si riapre così è il titolo del Quotidiano Nazionale. Tocca alle regioni ma fanno disastri è quello del Fatto Quotidiano. La Repubblica e La Stampa hanno titoli su interviste realizzate, la Repubblica col ministro Gualtieri, capisco la rabbia, aiuteremo tutti. La Stampa con Nicola Zingaretti, garantiamo la pace sociale. Rilancio da rafforzare, il titolo di Avvenire. Piangi e fotti, quello del Giornale. Lacrime per gli immigrati, ma per commercianti e imprese sul lastrico per ora niente soldi. Vincono gli immigrati e perdono i medici, è il titolo di Libero. La Verità, Conte ha mentito agli italiani. Questo perché il testo del decreto rilancio ancora non c'è. America First è il titolo del Manifesto su questa polemica tra gli Stati Uniti e la Francia sul vaccino di Sanofi. Ne parleremo tra poco con Paolo Mieli. Il Sole 24 Ore apre sugli imprenditori in rivolta per il rischio Covid, cioè questo combinato disposto del quale abbiamo parlato più di una volta, tra le regole INAIL e il decreto Cura Italia, che farebbe ricadere la responsabilità del contagio sul datore di lavoro a prescindere dalle misure di sicurezza che prende in azienda. Anche su questo arriveremo tra un attimo. Iniziamo come sempre da qualche storia laterale e oggi prendiamola diversa. Non tocchiamo il tema Covid, o meglio, magari lo toccheremo per un attimo in questa prima parte, però voglio iniziare da due storie diverse. In questi giorni tante volte abbiamo parlato delle scarcerazioni dei boss in relazione a Covid-19. Molte polemiche sono state innescate anche sulla figura del ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, ma la scarcerazione della quale ci parla Fulvio Bufi sul Corriere della Sera, pagina 27, è di altro tipo e però è sempre quella di un detenuto al 41 bis. Il tema qual è? Il tema è quello della condizione all'interno delle carceri e una scarcerazione che arriva esattamente per questo motivo. Poggio Reale, Lucciardone, Regina Coeli, Rebibbia, Trani, Parma, Bellizzi, Irpino, in ognuno di questi istituti di pena le condizioni di vita dei detenuti, scrive Bufi, possono raggiungere, anzi hanno raggiunto livelli inumani e degradanti, tanto da consentire a qualcuno di ottenere sensibili sconti di pena e anche un po' di soldi di risarcimento. È la storia di Patrizio Bosti, 62 anni, capo clan dei quartieri Vasto e Arenaccia, boss al vertice di quella alleanza di Secondigliano che ha rappresentato e rappresenta il più potente cartello di cosche attive sul territorio cittadino di Napoli. Bosti fu arrestato il 10 agosto del 2008 in Spagna, a Girona, e tra residui di pene e condanne accumulate in cui era imputato per associazione di stampo camorristico, concorso in omicidio, estorsione e altri reati, sempre con la aggravante della finalità mafiosa, sarebbe dovuto rimanere recluso fino al dicembre del 2023. Da qualche giorno ha lasciato il carcere di Parma, dove era detenuto al 41 bis, ed è tornato a Napoli, a casa sua, con il solo obbligo di firma cui dovrà sottoporsi per i prossimi 9 anni. E non solo, lo Stato gli ha riconosciuto anche un risarcimento di oltre 2.600 euro. Dietro l'anticipata scarcerazione del boss c'è un complesso meccanismo che si fonda in parte sui benefici concessi per la buona condotta e molto su due sentenze. La prima del Tribunale di Sorveglianza di Reggio Emilia, l'altra quella dell'analogo di Bologna. I legali si sono rivolti sostenendo per il loro assistito la detenzione non in condizione con quanto disposto dall'articolo 3 della Convenzione Europea per i diritti dell'uomo. Il ricorso parla di sovraffollamento delle celle, mancanza di acqua calda, docce interne e riscaldamento, ma anche carenza di socialità, costrizione ad usare il bagno in modo promiscuo, e cioè anche per lavare le stoviglie. I giudici hanno ritenuto valide queste motivazioni e dunque al boss Patrizio Bosti sono stati concessi gli arresti domiciliari. È tornato a Napoli e ha il solo obbligo di firma, un'altra scarcerazione che presumibilmente farà discutere. E invece, a proposito di criminali, c'è questa storia che è la storia di un truffatore, la trovate su un paio di giornali, ma guardate che... Insomma, è chiaro, è un truffatore, è un criminale, però la storia è affascinante, come quasi quasi da film, insomma, sembra pronta per una sceneggiatura. Ne troviamo traccia a pagina 16 del Quotidiano Nazionale e a pagina 17 del Messaggero, e arriva da Milano. A volte si spacciava per collezionista di opere d'arte, altre per un importante immobiliarista e persino per diplomatico. Vestito con abiti griffati, pieno di gioielli, al volante di una Ferrari 360 Modena Spider o di un Audi A6, riusciva a conquistare la fiducia dei suoi interlocutori, che selezionava tra proprietari di beni di lusso per tendere la sua trappola. Si mostrava interessato ad una compravendita, poi, promettendo un favorevole cambio di valuta, riusciva ad ottenere milioni di euro oppure oggetti preziosi e poi via. Nenad Jovanovic, pluripregiudicato 46enne di origine croata, re del Rip Deal, cambio di denaro fraudolento, ha perso il regno che si era costruito perché, insomma, l'hanno beccato trovandogli tra l'altro 8 locali a Trezzano sul Naviglio, nel Milanese, un altro di 4 a Sedriano, una Mercedes classe AMG, gioielli, bracciali, anelli in oro con diamanti, racconta qua Mariana Vazzana sul Quotidiano Nazionale, e il Messaggero scende ancora più nel dettaglio: 2 anelli in oro bianco con 5 diamanti, un anello fedina in oro bianco, un braccialetto con 210 diamanti, un altro con 52 e un altro con 52. E racconta il Messaggero di quella che è stata la sua truffa più grande. Quello più prestigioso è il colpo messo a segno nel 2017 a Monza. Si spacciò per un diplomatico rabbino della comunità ebraica milanese, tale Samuel Abraham Levi Graham, ed è riuscito a organizzare l'acquisto di 2 quadri, La fanciulla sul prato di Renoir e La sacra famiglia di Rubens, due quadri da museo, capolavori ritrovati poco dopo all'interno di un campo nomadi nel nord Italia. Questa la carriera che per il momento finisce di, appunto, il Nenad Jovanovic, 46 anni, croato, truffatore professionista a questo punto. Un paio di segnalazioni ancora, una non riguarda Covid e una riguarda Covid. La prima, che non riguarda Covid, è, bene, cari amici cittadini romani, sarete contenti di sapere che, insomma, per quanto usiate o non usiate i mezzi pubblici in questo periodo, che finalmente, dopo 419 giorni, riapre la fermata Barberini della metropolitana. Ci siamo, ci è voluto quell'anno e passa, però ci siamo. Riapre oggi al pubblico, sia in entrata sia in uscita, la stazione metropolitana di Piazza Barberini. 419 giorni per tornare alla piena operatività. Ieri ATAC ha comunicato che dalle 5.30 di questa mattina sarà possibile sia accedere alla fermata della linea A per chi vuole prendere un treno, sia uscire per chi arriva in questa piazza del centro storico. Racconta il Messaggero a pagina 35, quindi finalmente ci siamo. Lo ricorderete, tutta la vicenda delle scale mobili, della quale abbiamo infinitamente parlato. E invece, visto che ieri abbiamo letto il pezzo del Fatto Quotidiano che raccontava un po' di come sono andate male, per così dire, almeno a vederla dal Fatto Quotidiano, le cose per quanto riguarda l'ospedale in fiera di Milano, realizzato a tempo di record e però sostanzialmente inutilizzato, il Giornale ci porta dall'altro lato della barricata a vedere invece a cosa è servito e a cosa potrebbe servire questo ospedale. Lo fa con un esempio internazionale: Berlino come Milano, un ospedale nella fiera ma senza polemiche, racconta Alberto Giannoni, perché a quanto pare nella capitale tedesca hanno fatto esattamente la stessa cosa. Un ospedale di riserva realizzato nel quartiere fieristico, messo in stand-by e pronto per essere attivato in caso di necessità. Siamo in Germania, il Corona Treatment Center Jaffestrasse è stato appena terminato a Messe Berlin e risponde alla stessa identica logica dell'ospedale aperto alla Fiera di Milano. Il ministro della Salute del Land, Dilek Caliaci, ha spiegato che fungerà da ospedale di riserva. Il presidente federale Frank Steinmeier l'ha appena visitato guardando compiaciuto i letti vuoti. Non si registrano particolari polemiche. Quella dell'ospedale d'emergenza è una scelta che molti hanno fatto in Italia e nel mondo, e risponde a quello che l'assessore lombardo Giulio Gallera ha chiamato il modello israeliano: realizzare interi reparti, magari degli ospedali in ogni provincia, pronti e attivati per le emergenze. Secondo qualcuno, anche il nuovo ospedale berlinese non verrà mai utilizzato, perché le cliniche normali stanno gestendo senza particolari affanni l'epidemia e restano posti nelle terapie intensive. però fatto sta che è stato realizzato con il doppio dei posti, è costato anche il doppio. Quello di Milano è stato, come ricorderete, finanziato dalle donazioni dei privati. Una pausa. State ascoltando un programma offerto da Il lavoro cambia. Cambiamolo in meglio. Inaz.it. Mattino. Ha ragione ascoltatore del Veneto, autonomia subito per tutte le regioni del nord, anche qua per l'Emilia, autonomia subito, ma subito. Non solo non andrò al ristorante, ma penso che non andrò neanche in spiaggia. Vabbè. Possiamo fare, sono scelte. Caro Paolo Mieli, buon venerdì, buongiorno. E tu ci andrai al ristorante quando riapriranno? Con qualche cautela, sì. Con qualche cautela e molto molto tardi, cioè non mi accalcherò lunedì sera a un ristorante, sì, a una coda del ristorante. Anche perché, sai, guarda, leggendo i giornali di oggi sono molto stranito, nel senso che è arrivata una pioggia di miliardi annunciati, ben inteso, sì. Quindi non si sono ancora visti, 55 miliardi, una cosa mai vista, che si assommano a 25 precedenti sempre annunciati, 80 miliardi, e sai qual è la parola più ricorrente? Guarda, ce l'ha nel titolo di prima pagina della Repubblica, rabbia. Sì, sì. Persino Repubblica apre con un'intervista al ministro Gualtieri che dice capisco la rabbia, ma aiuteremo tutti. Te lo leggo tra virgolette. Le legittime preoccupazioni di una situazione senza precedenti possono generare anche rabbia. La capiamo e per questo il governo è impegnato a sostenere, sì, i cittadini, bla bla bla. Che un po', cioè, che un po', sì, prego Paolo, prego, finisce e poi aggiungo un elemento. Che si associa a qualcosa. Sì, sì, sicuramente all'intervista che rilascia alla stampa il segretario del Partito Democratico Zingaretti, il quale dice garantiamo la pace sociale. Insomma, diciamo un po' l'altra faccia della medaglia, se vogliamo. Però prego, stavi dicendo. No, ma è giusto, giusta osservazione. E vedo che tutti i giornali, non sto parlando, quelli di destra sono scatenati, ma oggi li accantono per un momento, ma mi colpisce il Corriere della Sera, la stampa tra l'altro pubblica un esame spietato di Carlo Cottarelli, manovra con misure difensive a scadenza, si spende molto ma ai giovani resterà poco. E Carlo Cottarelli, ricordiamolo tutti, era il presidente del Consiglio alternativo a Giuseppe Conte, quello che a cui aveva pensato il capo dello Stato nel 2018, quando non si riusciva a trovare la quadratura fra il Movimento 5 Stelle e Lega. Beh, insomma, sono tutti molto, capisco la rabbia, ti dicevo, fase 2, Conte accelera, Gualtieri, il decreto non lascia nessuno indietro e rilancerà l'economia. Poi di nuovo a pagina 4, un articolo di Paolo Griselli, rabbia, un milione di nuovi poveri nell'Italia che non riesce a ripartire, e poi una serie di dichiarazioni, sembra non c'è nessuno contento ora, sì. Capisco, perché tutti notano il caos, un metro per la sedia a sdraio, due metri per entrare, anzi quattro metri, sì, per la sedia a sdraio, due metri per entrare in un ristorante, e dai bagnini ai ristoranti, per di più regioni in ordine sparso, articolo di, sì, Alessandro Ziniti, e però vedo, sì, anche dal Sole 24 Ore, prima pagina, rischio Covid, imprenditori, sì, rivolta. Perché poi è l'altro fronte, no? Perché oggi mi pare che siano due i fronti sostanzialmente. Da una parte c'è il fatto che non abbiamo ancora i dati dalle regioni, i quali dati dovrebbero dirci quali restano aperte e quali restano quali possono aprire un po' di più e quali debbono restare nella condizione nella quale sono attualmente, da una parte. Dall'altra parte non abbiamo i dati, non abbiamo ancora le linee guida stabilite dal governo e quindi ci sono tutta una serie di imprenditori, soprattutto bar, ristoranti e via dicendo, che poi hanno queste direttive dall'INAIL, no? Però non sanno ancora effettivamente cosa fare, e dall'altra parte il rischio Covid in azienda, esatto. E il mix tra il decreto Cura Italia e le direttive dell'INAIL che fanno sì che gli imprenditori possano risultare responsabili. Infatti, insomma. Avrei visto, c'è un articolo di Jacopo Giliberto, pagina 2 del Sole 24 Ore, dice: per gli imprenditori è inaccettabile che il contagio da coronavirus possa determinare responsabilità nonostante le ingenti misure di sicurezza, perché dicono: ma scusami, questo, ci sono una serie di imprenditori intervistati, Giacomo Sebastiani, Fabio Ravanelli, Giancarlo Barocci, Piero Gai, e potrei fare un elenco lunghissimo, e dico: ma se uno si prende il Covid fuori e noi paghiamo, ma possono essere cause che tirano fuori milioni, insomma, o implicano la chiusura degli impianti appena riaperti? Possibile mai che non si sia trovata una soluzione? Ovviamente, sempre a pagina 2 del Sole 24 Ore, si pubblica una proposta di Confindustria sulla sicurezza. Ma sai il motivo per cui mi soffermo, a parte sì, che noi siamo la radio di casa, è ovvio che leggiamo con particolare interesse il Sole 24 Ore, ma perché mi ha molto colpito un articolo di Stefano Folli, che è il principale, sì, commentatore politico di Repubblica, che dice: guardate, il vero soggetto politico di questa nuova fase sarà la Confindustria guidata da Bonomi. Cioè, Stefano Folli, senza entrare in dettaglio, sì, ma legge attraverso le prime dichiarazioni del candidato ufficiale, ormai designato, sì, quasi eletto capo della Confindustria, legge un protagonista, sarà lui l'uomo centrale della nuova stagione politica. Sì. E siccome il nuovo capo designato di Confindustria, Bonomi, è stato severissimo, cioè non è, sì, perché in genere quando uno è eletto capo di Confindustria dà un colpo al cerchio, un colpo a botte, fa dichiarazioni per tenersi tutti, fa un'operazione simpatia, mentre invece questa cosa, ti ricordi, ne abbiamo già, sì, parlato, ha sorpreso tutti. Bonomi ha fatto tutt'altro che un'operazione simpatia, è andato giù duro e ha fatto rilevare molte incongruenze nell'azione di governo, sì, nell'azione di governo, e questo ha colpito tutti. Folli oggi è il primo a metterlo, a dargli un rilievo quasi politico. Sì. Sul fronte politico, allora, siamo un po' in ritardo oggi, ci prendiamo una pausa per il traffico, e poi sul fronte politico ti vorrei portare ancora per un attimo sul tema della sanatoria, perché oggi abbiamo pescato una cosa carina fuori dalle pagine dei giornali e invece sull'online. Ci arriviamo tra un istante. "24 Mattino". Oh, caro Paolo, i giornali di destra e di centrodestra sono scatenati ovviamente contro la regolarizzazione, contro l'emersione del lavoro nero e regolarizzazione dei migranti. Piangi e fotti, lacrime per gli immigrati, ma per commercianti e imprese sul lastrico per ora niente soldi, è il titolo del giornale. Vincono gli immigrati e perdono i medici, è il titolo di Libero, e peschiamo però dall'Huffington Post un intervento di Bobo Maroni, ex presidente della regione Lombardia, ex leader della Lega, ex ministro dell'interno. Sì, quello che dice che hanno copiato tutto da lui. È stupendo, perché dice: il testo della sanatoria di oggi è identico a quella che facemmo noi nel 2009, no? Non male. Ma guarda, questo è molto probabile, perché quando ci si mette molto a prendere una decisione, e qua per questo decreto di aprile ci si è messo un mese, finisce che fra gli incartamenti tutti chiedono ai ministri, ai loro segretari, numero due, e succede regolarmente che numero due, numero tre, numero quattro prenda un provvedimento precedente, lo copi di sana pianta. Ed effettivamente anche a me, quando ho letto le dichiarazioni di Maroni, sono rimasto senza parole, perché fa la battuta, ci dovrebbero pagare le royalties, no? Che non è male come battuta, insomma. Esatto, va bene, ma questo comunque, sì, è un particolare divertente, ma che ci dice qualcosa di più di quello che vuol dire Maroni. tira acqua al suo mulino, ma ci dice che è stato partorito in una situazione caotica, il caos che è riconducibile alla pandemia, al Covid, ma solo in parte. In realtà si stanno assestando i giochi politici, anche i rapporti fra PD e 5 Stelle. A tutto vantaggio, mi sembra, da quello che leggiamo sui giornali, a tutto vantaggio del PD, cioè i 5 Stelle cedono, come si è visto sulla questione dei migranti, cosa che ha provocato l'emozione del pianto della Bellanova, e il PD guadagna spazio, guadagna terreno, è il nuovo partito centrale della maggioranza, anche grazie a Conte. Sì. No, sei la stessa impressione, sì, no? assolutamente. Tra l'altro sul quotidiano nazionale c'è un sondaggio dell'Istituto Cattaneo su dati SVG, il quale ci dimostra che, insomma, Conte è molto apprezzato proprio dagli elettori del Partito Democratico. I dati sono là a dircelo, insomma, no? Ma spesso sì, è una cosa che abbiamo osservato anche qui parlandone di te da almeno un mese e mezzo. E ti aggiungo che, per esempio, sono state fatte le nuove nomine nella RAI, lasciamo perdere, non entriamo nel merito, ma Mario Aiello sul Messaggero titola così: la ritirata dei grillini parte dalla RAI, Orfeo al TG3 e a giugno l'ondata PD. Nella RAI, che è un termometro politico molto importante, il PD ha fatto man bassa e si è preso anche dei posti che spettavano ai grillini, dicendo: ecco, questo è un bravo grillino, mettiamolo qui, mettiamolo lì. Insomma, i grillini sono in una fase difficile, lo stiamo registrando da parecchio tempo, ma continuano a essere in una fase difficile e arriva per loro la fase difficilissima, quella in cui dovranno ingoiare il MES. Quindi ne parleremo sicuramente. Allora, una fase difficile l'attraversa anche il presidente francese Emmanuel Macron, al centro della scena ieri per due motivi. Il primo sono questi dati che indicano un calo di popolarità, ne parla La Stampa, pagina 14. Il secondo, la vicenda di Sanofi e del vaccino. L'azienda francese ha dichiarato che priorità sarà data agli Stati Uniti, con i quali sul vaccino stanno lavorando da tempo, e questo ha scatenato il presidente francese. Sì, ho visto che, secondo Stefano Montefiori, che ne parla diffusamente sul Corriere a pagina 16, il vaccino prima agli Stati Uniti, l'annuncio di Sanofi diventa un caso, ma poi che l'azienda verso sera ha ritrattato, come sempre succede. Ma siccome questa cosa di Sanofi, anche questa ne abbiamo già parlato, non è la prima volta che si affaccia. All'inizio della pandemia gli Stati Uniti hanno investito, prendendo dei diritti di prelazione, in molte aziende che preparavano il vaccino, si sono portati avanti su quel terreno. Adesso esigono che a questi investimenti sia data una risposta, risponde in questo caso, come tu hai detto giustamente, l'orgoglio francese, ma Macron ha molte più difficoltà di quelle che ha Conte, perché vedi, Conte in fondo galleggia bene, dai, riesce grazie a queste sue sortite serali, i sondaggi lo danno ancora abbastanza in alto, mentre chi se la passa davvero male è Macron è entrato nella crisi con un ritardo, anche questo l'abbiamo rimarcato, quella famosa domenica che mandò tutti a votare e poi scoppiò la pandemia, e Macron anche in margine a questa vicenda del vaccino passa un brutto quarto d'ora, è quello che lo passa più brutto oggi nello scenario internazionale. Sì, quindi una fase complicata per il presidente francese. Prima di andare a chiudere con un elemento che ha a che fare con la cultura, e non solo con la cultura e con la storia, Paolo, ti vorrei chiedere un piccolo commento. Oggi troviamo un po' traccia su tutti i giornali, visto che molto ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, delle parole che Silvia Romano ha scritto su Facebook, e devo dirti, mi hanno colpito perché sono delle parole finalmente tranquille. tranquille, no? In tutto questo, questa confusione, questo casino, questa sguaiatezza che ha riguardato la sua vicenda, sia in termini di comunicazione, sia in termini di comunicazione governativa, sia in termini di sguaiatezza dell'opposizione, cioè da entrambi i fronti, direi, arriva finalmente a questa ragazza un messaggio di calma, dice: tranquilli, non ve la prendete con chi si arrabbia con me, insomma, sono qua, sono felice di essere tornata, no? Un bel c'è un bello una parola spunto che hanno colpito anche me, perché non sono parole, lo dico fra mille virgolette, da terrorista islamica. Già. Ma sono parole da persona che l'ha presa quasi, dico quasi, con ironia, e non me le aspettavo, insomma, sono felicemente sorpreso, perché poteva benissimo mettersi a piangere, avvolgersi nella bandiera, dire come sono stato oltraggiato dopo quello che ho sofferto. Invece ha mandato delle parole di pacificazione, anche se ho saputo leggere bene tra le righe, pacificazione a coloro che l'hanno aggredita. Tutto sommato ha detto: state calmi, sì, lasciatemi tranquilla, vi voglio bene a tutti, giriamo pagina. Belle parole, sì, davvero. Ti voglio portare a pagina 24 della Stampa, dove tu, da storico, puoi anche darci la misura dell'importanza del personaggio che è scomparso ieri, Rolf Ochut, morto nel suo appartamento di Berlino all'età di 89 anni. Chi era? Beh, un personaggio importantissimo, perché all'inizio degli anni 60 lui era stato un giovane della gioventù hitleriana, ma da giovanissimo non si era macchiato di colpe, non era stato epurato. Aveva scritto un dramma che si chiamava Il Vicario, in cui per primo aveva puntato il dito contro Papa Pio XII accusandolo di non aver mosso paglia in favore degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. E questo dramma poi era stato rappresentato in teatro, a un certo punto fu portato anche in un film, ma in teatro nel 1965 a Roma, con una piastra teatrale interpretata da Gian Maria Volonté, avevano chiuso il teatro. Insomma, sulla base di queste accuse è stata montata poi un'iniziativa storiografica contro Pio XII che dura ancora oggi. Quindi la storia di un giovanissimo allora drammaturgo che scrive una pièce teatrale e che lancia un caso storico che è diventato il caso storico degli ultimi, sì, 60 anni. E quindi vedrai, oggi i giornali hanno fatto appena in tempo, hai fatto bene tu a notare questo articolo di Francesca Sforza, il migliore, più puntuale, però se ne parlerà ancora, perché se ne parlerà perché proprio in questi giorni, un mese, sì, due mesi fa, hanno aperto gli archivi vaticani e tutti gli storici stanno lì che stanno cercando, stanno documenti per vedere se ci sono, sì, documenti o no a riprova di questo. Importantissima cosa, mi complimento con te che l'hai pizzicata sui giornali. Grazie Paolo Mieli, grazie, ci sentiamo lunedì naturalmente, Paolo, eh. Buon fine ci settimana. Puntuale, puntualissimo. Buon fine settimana, ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo con Maria Latella, avremo ospiti il ministro Patuanelli e poi il leader della Lega Salvini. A tra poco.